si attirò, già si attirò un punto e così è terminato anche quello. No, io vado una mattina, devo scendere a Portose, prima alle 7 devo essere lì, quindi domani non ti vediamo, alle 7 lì che mi prendo il comparatore, devo fare un po' di rilevamenti. E niente, speriamo di riuscire a rientrare il primo pomeriggio, prendere almeno quello delle 2, se no mi tocca rientrare secca, tra le mie attese sono 8:30. Fatto. C'è proprio l'ora, si fa sempre, mannaggia. E io non mi parlo di, purtroppo. Però vabbè, pensavo risolvesse il mio collega, invece non ce l'ho fatta. Ci sono stati imprevisti, sono cose che ha bisogno di me, infatti lui è rimasto lì per non tornare indietro e domani mattina viene a prendermi il traghetto. Allora però non mi rompere le palle, perché avevo un po' di cosette da fare qua, però se c'è da andare lì non mi posso fare in quattro. C'è bisogno, bisogna andare. È così. Eia. Ma fortunatamente c'è un bel fresco, ci dovrebbe star bene. Ma ci siamo usciti poco fa, ma c'è un po' di freschetto lì. Ma te portarmi giù un po', no? Oggi tu mi porti la manta con l'impermeabile. Che sì. Freschetto, ma te vado lì. Che per freddo non mi si da 8. Niente di strano, ma c'è freschetto con le zone. Ma un giubbotto, giusto un giubbottino per tapparsi, ma non per il tappo, ci vogliono questi grossi giubbotti. Si sta così bene, altro che male sono. No, si sta bene. Lavoro così, mi ha lavorato bene, c'era quel freschetto bello. E poi c'è anche piacere lavorare. Sì, infatti io stamattina non ho lasciato te, sono sceso giù a Monteolo, per Trucco Reale, ho fatto tutto la solita passeggiatina, poi mi ha chiamato la chimica sale, è arrivato il prodotto lì a Palmadola, mi sono andato a firmare la bolla. Diciamo che per l'1:20 ero già in zona tiro, ero già a Sassari, e quindi ho fatto anche in fretta stamattina. Allora domani mi tocca combattere un bici, vabbè, pazienza. Speriamo di riuscire a risolvere questi problemi che ci sono, perché voglio andare in ferie a settembre, se no siamo fregati. Beh, a settembre vai in ferie. Almeno una settimana me la voglio fare a settembre, così completo anche quei lavori che ho delle antenne, c'è più fresco, ma tanto ci sia vento, già si lavora bene, e soprattutto completare quel tappo là che ti ho detto, quindi mi chiamo Mario, che venga con la scritta, quello vuole fatto in fretta, quello vuole fatto in fretta. Infatti vedo un po' di fare subito queste calate e poi chiudere tutto siliconale in modo che asciughi bene e non ci siano problemi dopo, capito? Sì, prima si fa meglio, perché se dopo le parole più c'è un grosso casino, davvero prima si fa meglio. Infatti, prima si fa meglio. Vabbè, io vado a mangiare un po' con me, una mezz'oretta, e sono di nuovo qua, occhiato. E io ho detto anch'io, mangio un po' cucina anch'io e ci ascoltiamo a papà. Buon tutto, a dopo, così. E a tu, mandami il bip, così so che sei attivo, vai, mangio un po' con me, poi sono qua, ciao a dopo. E io, ciao a dopo, così. Ah, dentro il molo. No. bello nuovo. Ah, figlio, sei rettando male il mio figlio, non è una pelle. Mio padre aveva via Roma, in pratica via Giorgio Struni, ce l'ha così. Io sono in carcere, per andare in carcere. Capo di noce, parli domani che scendo a Corsica e chiudo un po' le mie faccende. E muore, muore, lui è solo di male. Eccomi qua, ciao Vinucce. E c'è bacio, bacio. Cos'hai detto qui, un basso basso, così vede. Posso levare la potenza allora. Ok, aspetta un attimo, cambio. Ciao De Rocci. Riesci a vivere come un tanto uomo. Aspetta. Noi vogliamo andare tranquillo. Non ho poche parte, le tessere che le farò aumentare, 50